dall'osservazione, l'emozione dell'osservazione. Sì, certo, è informazione, entra delle cose e tu non ti accorgi neanche. E tu le traduci nella tua l'unico, cosa. L'unico guaio, secondo me, ha a che fare con la soglia critica di Popper, insomma. Cioè che l'informazione è troppa e quindi poi prima che sedimenti e produca emozione è un casino, è un problema. Ecco, ma vengono prima le parole o la melodia in un'ispirazione? Beh, io sono un caso particolare, a me viene la frase melodica e poetica. Beh, lì è un discorso lunghissimo, no, ma detto in due parole? È detto in due parole difficile. Cioè, io credo che dentro le parole e dentro le emozioni ci sia una musica, cioè dentro una parola c'è una musica. È la storia del modulo. Il modulo ti costringe, cioè dentro a una parola c'è una melodia e la parola subito dopo deve essere, può essere solo quella, la nota dopo quella può essere. Insomma, per fare un esempio semplice, tan dan dan dan, tan dan dan dan, da lì in poi è tutto già scritto. Ah, perfetto. Cioè, quella premessa lì è un modulo che ti dà già che la conseguenza. Ti schiavizza fino in fondo. In fondo. Ecco. Cioè, la più grande libertà di un artista è la schiavitù del modulo. Certo. Questo tutti i musicisti lo dicono, eh? Se ti vuole. Paoli, se dovesse salvare una sola delle sue canzoni bellissime, quale salverebbe? Nell'ottica di quello che ho detto prima, Sassi. Sassi. Ed è Sassi sempre oppure oggi Sassi e domani un'altra? No, è sempre la stessa. È sempre la stessa perché Sassi è la più vicina a quell'emozione che avevo in testa. Ce ne sono più belle, sì, non sto dicendo. Ma non ho detto la più bella, infatti. Perché è la più vicina a quell'assoluto di quell'attimo. Esatto. Grazie. Mix 24. La storia. C'è una cosa che non potrò mai dimenticare. C'era un ragazzino che aveva 9 anni. A un certo punto ha cercato di scappare. Un terrorista ha urlato: dove vai? Io ho pensato: lascialo libero, è solo un bambino. Quando ha raggiunto la finestra per saltare, quell'uomo gli ha sparato alla schiena. È morto subito. Erano 3 giorni che bevevamo. L'acqua era un'ossessione, così grande che la paura non contava più. Ho visto un bambino morto, con la lingua lunga fuori, come quella di un cane. Tutti correvano. Un bambino di 3 anni è caduto per terra. Tutti gli passavano sopra. Io anche. Non posso più dormire. Voglio dimenticare nulla, anche se mi dicono che i ricordi saranno un grande peso. Non voglio dimenticare, perché se lo facessi, io tradirei ogni bambino che è rimasto qui per sempre. Il primo settembre del 2004, 32 separatisti ceceni fanno irruzione in una scuola di Beslan, una piccola cittadina dell'Ossetia del Nord, prendendo in ostaggio oltre 1100 persone e chiedendo il ritiro dell'esercito russo dal loro paese. Per 3 lunghissimi giorni centinaia di bambini restano ammassati in una palestra. Il caldo è insopportabile, la sete è la vera nemica per gli ostaggi rinchiusi nella scuola. Il mondo intero tiene il fiato sospeso su quella piccola cittadina. Poi l'irruzione delle forze speciali russe, il bagno di sangue, 334 vittime, di cui 186 bimbi e oltre 700 feriti. E l'orrore di Beslan, un dramma senza precedenti per il quale ancora oggi è difficile trovare le parole e sul quale restano tuttora molti punti oscuri. È la mattina del 1 settembre 2004. Per migliaia di bambini è il primo giorno di scuola. Beslan è una cittadina di 35.000 abitanti dell'Ossetia del Nord, Repubblica Russa del Caucaso, ai confini con la Cecenia. Alla cerimonia di apertura dell'anno scolastico partecipano migliaia di bambini accompagnati dai genitori. È un giorno di festa e di gioia. Alle 9.30 un commando di 32 separatisti ceceni fa irruzione nell'istituto. Sono attimi di terrore. All'interno della scuola ci sono imprigionate 1.200 persone. Studenti, genitori, insegnanti sono tenuti in ostaggio. Sono appena le 9.30 del mattino e i terroristi minano la palestra. Le bombe vengono sospese in aria, rette da una serie di fili legati ai canestri. A turno i sequestratori tengono il piede sull'interruttore che può far saltare tutto. Se per un attimo dovesse sollevarsi quel piede, sarebbe la fine. La tensione è altissima. I sequestratori tengono sotto ricatto gli ostaggi. Gli viene impedito di mangiare e soprattutto di bere. Vengono uccisi numerosi uomini davanti agli occhi terrorizzati dei bambini. Nel pomeriggio del 1 settembre più di 50 bambini riescono a fuggire dalla scuola. Il giorno successivo i terroristi liberano alcune donne e bambini. Siamo al terzo giorno, è il 3 settembre, la situazione precipita. All'esterno della scuola scatta il blitz delle forze speciali russe. Dall'interno dell'istituto si avvertono due esplosioni. Nella palestra una parte del soffitto crolla. Inizia lo scontro a fuoco tra terroristi e forze armate russe. Un'operazione che si conclude all'alba del 4 settembre, lasciando sul campo 334 morti, di cui 186 bambini. E la strage degli angeli, una tragedia per migliaia di famiglie sulla quale ancora oggi è difficile fare luce. Su quella vicenda, su cui tre lunghissimi giorni, restano infatti ancora numerose domande senza risposta. Qual era il numero esatto di guerriglieri presenti nella scuola? Quanti rimasero uccisi nel corso del blitz? Cosa è successo realmente durante l'irruzione delle forze di sicurezza russe nell'edificio? L'innesco delle bombe da parte dei sequestratori fu una reazione all'irruzione dei militari russi nella scuola? Domande che ancora oggi le famiglie delle 334 vittime e delle centinaia di feriti ed invalidi continuano a porre al governo russo. Domande che da 10 anni sono in attesa di una risposta. Ancora oggi l'associazione Madre di Beslan continua a chiedere la verità su quanto 10 anni fa successe all'interno della scuola. Solo pochi giorni fa Papa Francesco ha inviato una lettera a tutti i superstiti e ai parenti delle vittime, un messaggio di vicinanza e di incoraggiamento nel 10° anniversario di quell'attentato. Subito dopo la strage la giornalista Stella Pende si è recata nel paesino straziato dal dolore. Oggi a Mix 24 vi proponiamo quel racconto, un viaggio nel dolore e nella memoria con le voci dei sopravvissuti, un viaggio per non dimenticare. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Oggi, a 10 anni di distanza, vi raccontiamo la strage di Beslan con un reportage di Stella Pende realizzato un mese dopo quella tragedia. Di un mese, ma Beslan rimane attaccato addosso come un tatuaggio di dolore. Appiccicato al cuore come la fotografia della figlia morta, sta attaccata alla povera croce di legno. Tu parti, vai, arrivi. D'improvviso ti arrivano addosso gli occhi perduti di un bambino invecchiato dalla paura. le mani impazzite di una madre che ha cullato il figlio morto per 2 giorni. Il pianto di un uomo che ha trovato moglie e bambina abbracciate come 2 statue carbonizzate. Beslan non si dimentica. Non si può dimenticare. І от так от їх повісили, ці бомби. Я хотіла запити. C'è una cosa che non potrò mai dimenticare. C'era un ragazzino che aveva avuto 9 anni. A un certo punto ha cercato di scappare. Un terrorista ha urlato: dove vai? Io ho pensato: lascialo libero, è solo un bambino. Giunto alla finestra per saltare, quell'uomo gli ha sparato alla schiena. È morto subito. Ho guardato negli occhi quell'uomo, poi mia figlia, sdraiata accanto a me. Batras Murtasov e Batras Missikov, 7 e 15 anni. La mattina del 1 settembre, con le loro famiglie si recano alla scuola numero 1 di Beslan per l'inizio dell'anno scolastico. Sono 2 dei sopravvissuti della strage degli angeli. Batras ha 7 anni, è uno dei bambini sopravvissuti della scuola numero 1. È stato letteralmente buttato dalla finestra da sua madre e ha avuto la forza di si è fatto molto male alla gamba, ma ha avuto la forza di correre comunque evitando gli spari, e poi improvvisamente è arrivato in braccio a qualcuno che lo ha portato in un'autoambulanza. Batras, qual è qual è stato il momento più brutto per te? Quando c'è stata la bomba della morte, ho pensato che i soldati non ce l'avrebbero fatta a salvarci. Faceva molto caldo, avevi molta sete. I banditi obbligavano gli uomini e i grandi a stare vestiti. I bambini chiedevano l'acqua e loro ridevano e ci prendevano in giro. E ci dicevano: non bevete l'acqua, è avvelenata. Poi ci siamo accorti che avevano messo dentro una pillola per dormire. Avrei dormito sempre, non volevo più svegliarmi. Il teatro dell'incubo per gli angeli di Beslan è stata certamente la palestra. Morti e vivi insieme, bambini e donne affogati in un mare di urina e di sangue, ma soprattutto l'arsura. La sete è stata la vera carnefice nella scuola numero 1. 1000 e più persone dentro una stanza sola, piccoli che soffocavano, grandi che morivano. Forse è per vendicare questa sete il tappeto di bottiglie che copre la palestra intera. Acqua, fiumi di acqua, per dare pace a queste anime arse. E pensare che tutto è cominciato con quelle bombe attaccate con lo scotch. Ai lati estremi della palestra, all'interno dei canestri, i terroristi hanno nascosto le bombe. Gli ordigni sono attaccati con dello scotch che man mano, col caldo della palestra, si sta allungando. Il pericolo principale è che le bombe possano cadere. Ancora il racconto di Batras Missikov, 15 anni. Qui c'era un pedale che collegava tutte le bombe insieme. A muoverlo c'è sempre stato un terrorista fisso. Si davano il cambio. In caso di assalto era previsto che spingendo l'interruttore tutto sarebbe saltato per aria. Batras ha avuto un ruolo fondamentale, importantissimo in quei giorni. Lui e pochi altri sono stati scelti come aiutanti dal leader ceceno Kuyakov, Il colonnello gli faceva portare nei corridoi le sue mitragliatrici, i tappeti dove avrebbero pregato. Con Batras, Kuliakov ha cercato di preparare il video che doveva essere quello delle trattative in diretta con Putin. Batras sa molte cose che vuole dire, altre che non può dire. Quando ci hanno salvati, i soldati dell'Alfa sono entrati da quella finestra. Qui abbiamo messo il cartello: non sparate, ci sono i bambini. Era il primo giorno di scuola. Il direttore ci faceva festa. All'improvviso abbiamo sentito spari nell'aria. Tutti hanno cominciato a correre. Con la coda dell'occhio ho visto tre terroristi. Cercavano di raggrupparci tutti insieme. Il mio amico Oleg mi ha detto: sono fuochi artificiali. Ma i feriti cadevano nel sangue. Il panico è scoppiato. Il terrore faceva urlare la gente. Io stavo seduto e aspettavo di morire. I terroristi ci avevano detto che le forze dell'Alfa avrebbero fatto l'assalto. Noi sapevamo che in quel caso tutto sarebbe esploso. Uno dei terroristi era seduto sul terminale che collegava ogni bomba. La prima bomba l'ho vista esplodere. La seconda ho sentito solo un gran calore. Sono svenuto. Mia madre mi ha trascinato fuori, a carponi, in un'altra stanza dove c'erano tante persone, attaccate così forte che non si riconosceva di chi erano le mani e i piedi. Era un groviglio di sangue e di paura. Erano tre giorni che bevevamo. L'acqua era un'ossessione, così grande che la paura non contava più. Ho visto un bambino morto, con la lingua lunga fuori, come quella di un cane. Abbiamo cominciato ad andare a carponi in un bagno di fianco. Abbiamo trovato finalmente bicchieri e un tubo per la benzina. Ci abbiamo messo dentro l'acqua e l'abbiamo data ai bambini feriti. Poi all'improvviso sono tornati i rumori. Quando ho bevuto, per me è stato come rinascere. Quando l'acqua è finita, tutti si attaccavano alla bottiglia, volevano bere ancora e succhiavano ogni goccia come piove. Poi un uomo ha strappato la bottiglia ed è corso in bagno. C'era tanto rumore. Tutti urlavano, lui correva. Lo hanno ammazzato. Il terzo giorno era finita, non ci davano più acqua e tutti facevano la pipì nella bottiglia e bevevano. Oppure la facevano nelle scarpe. Quelli che avevano perduto le scarpe la facevano nelle scarpe degli altri. Non volevano, ma dovevano farlo. Io speravo nei soldati dell'Alfa, speravo in me, in Dio. Così tanto in Dio, solo in Dio. Anche nei soldati, ma più di tutto in Dio, nel buon Dio, quello che salva le persone. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Continuiamo con il racconto della strage degli angeli. Dal 1 al 3 settembre, per 52 ore, i separatisti ceceni tengono in ostaggio circa 1200 persone nella scuola numero 1 di Beslan. Intenzione dei terroristi è avviare una trattativa con il governo russo. Batras Missikov racconta quello che ha visto e sentito in quei giorni. Il colonnello aveva preso la televisione dallo studio del preside. L'aveva portata in una sala accanto. Loro si erano portati delle camere insieme alle armi. Lui voleva fare le trattative in diretta. Un video come un'altra bomba. Mi vedi bene così? Mi chiedeva. Ma nulla funzionava, era furioso. Lui mi ha detto, fuori i militari dalla Cecenia. Allora si è attaccato al cellulare. Fate le vostre proposte, noi faremo le nostre. Da fuori dicevano che ci davano medicine, c'erano feriti gravi. Loro hanno detto che quella roba non ci serviva. E volevano davanti alla scuola altre 4 persone. Aslokhanov, consigliere di Putin. Aushev, ex presidente dell'Ingushezia. Zazokhov, ex presidente dell'Ossetia e l'attuale Zazikov. Aushev lo chiamavano ladro e traditore e volevano fucilarlo. Poi lui è arrivato, io l'ho visto. È entrato nella palestra, ha realizzato la situazione. Era scioccato dalla massa di persone. Ha preso le donne con i neonati e li ha portati via. Si dice che uccidessero la gente a freddo davanti ai ragazzi, davanti ai bambini, insomma si dicono molte cose. Cioè, qual è stato in realtà il comportamento? Sì, uccidevano davanti a tutti. C'era un uomo che cercava di tranquillizzare la gente. I terroristi, per dare un esempio, gli hanno detto di mettersi in ginocchio, gli hanno messo la mitragliatrice alla testa e hanno sparato 10 colpi. Il sangue ci è schizzato perfino negli occhi. Hanno lasciato lì il cadavere mezza giornata, ma con quel caldo l'odore era terribile. Allora l'hanno portato via. Ci costringevano a portare le armi dall'entrata centrale fino alla palestra. Quando siamo entrati, una furia di armi, mitragliatrici, mine, pistole. Stavano in grandi borse. Su ogni finestra c'era un uomo con le mani alzate. Lo facevano per far capire che sarebbero stati tutti ammazzati in caso di assalto. Maya Mikaeva aveva 13 anni nel 2004 e la mattina del 1 settembre era andata a scuola. Era un giorno apparentemente come tanti. Maya Mikaeva è salva, ma combatte con i suoi incubi. Con uno soprattutto. Avevamo così fame. Mangia i fiori, mi ha detto Elisabetta Nikaev. E io l'ho fatto. Hanno sparato a un uomo. Mi è caduto addosso. Ma la cosa più terribile è stata l'esplosione. Tutti correvano. Un bambino di 3 anni è caduto per terra. Tutti gli passavano sopra. Io anche. Non posso più dormire. Ci sono bambini che ce l'hanno fatta, ma non possono dimenticare quello che hanno visto. Non riescono a cacciare dagli occhi il sangue, dalle orecchie gli urli e gli spari. Non riescono ad accettare di essere rimasti soli. Bambini che non possono più parlare, che non possono più stare da soli. Voglio dimenticare come trattavano i bambini là dentro. Li picchiavano se non li ascoltavano. Poi, per far star zitti tutti, sparavano nel soffitto. Avevano le maschere antigas. Non volevano morire, come nel teatro di Mosca. Poi uno di loro ha piazzato la bandiera dell'Ossetia nel cesto dei rifiuti. Ha detto che l'Ingushetia e la Cecenia si vendicheranno ancora di noi e che ci sarà guerra in tutto il Caucaso. Io so solo che ho visto che c'era una forte gerarchia. Tutti ubbidivano un grande capo. Lo chiamavano colonnello, faccia scoperta, con pochi altri, lui, feroce. È vero che c'erano degli arabi, secondo te, in mezzo a questa gente o no? Sì, ce n'era uno. Era molto diverso dagli altri. La faccia, i tratti, il colore scuro della pelle, occhi grandi, per niente un tipo caucasico. Era vestito di nero e sulla testa aveva una striscia con una scritta araba. Aveva un coltello sul fianco. È arrivato e ci ha guardato. Poi si è avvicinato al colonnello e gli ha ordinato qualche cosa. Se n'è andato e noi non l'abbiamo più visto. Quando niente arrivava dai russi fuori, lui mi ha detto: fuori i militari dalla Cecenia. Allora ho capito che eravamo condannati. Anche se avessero preso 100 scuole e 2 milioni di bambini, Putin non sarebbe uscito dalla Cecenia. Questo paese è un gruppo di case, un gruppo di persone. Siamo insieme da sempre, siamo cresciuti insieme. Loro sono venuti e hanno distrutto tutto, un solo attimo. Non ho parlato con Olga Nikayev. Il suo pianto non finiva. Non aveva un figlio solo a consolarla. Ne ha seppelliti tre. Il primo, di 3 anni, non ce l'ha fatta a superare la sete. Lo ha cullato morto per 2 giorni. Poi, dopo l'esplosione, è scappata con Madina e con Emma, 12 e 7 anni. Mentre correvano sotto i proiettili, Madina è caduta colpita. Emma le ha detto: «Mamma, corri, vai a chiamare i soccorsi, sto io con lei». Ma quando Olga è tornata, per le sue 2 bambine, non c'era più speranza. Ossetina dice che per 40 giorni i letti dei due scomparsi o delle due scomparse devono essere pieni della loro roba, come se in realtà volessero o dovessero portarla con loro. Poi dopo 40 giorni l'anima se ne va, lascia la casa e lascia i loro letti e allora la roba si può togliere. Stringersi intorno alle famiglie dei perduti è nato nel cuore di Beslan un comitato. Sono le professoresse, le maestre, le cuoche della scuola numero 1. Fra le donne, Zalina Olbiegava, professoressa di chimica, Per salvare il suo bambino impazzito dall'orrore, ha rischiato di fargli molto male. Lo racconta. Dopo l'esplosione, intorno a me c'erano solo cadaveri e uno dei terroristi ci ha ordinato di correre verso la mensa. Durante la corsa, mio figlio mi ha detto: «Mamma, io non voglio vedere più nulla, preferisco che mi sparino». Io mi sono spaventata perché ho pensato: «Lui correrà incontro ai proiettili». Allora l'ho preso e l'ho messo sotto uno scaffale della mensa e gli ho premuto così forte la testa contro il pavimento che adesso lui ha una commozione cerebrale. Vomita, ha la febbre alta, ma si è salvato. Poi, quando tutti i bambini stavano scappando, una piccolina ha cercato di saltare dalla finestra. Un proiettile l'ha colpita ed è rimasta lì come una bambola rotta. Mix 24, la storia. Beslan è una città distrutta dal dolore. Fa la conta dei suoi morti. Per la gran parte sono bambini. Per chi è sopravvissuto, la vita non è più quella di prima. Hassana Makieva ha 10 anni, porta addosso un peso terribile. È sopravvissuta a sua madre e al fratello maggiore Stanislav. Parla come se raccontasse il film di un altro. Mio fratello stava male, era viola. Soffocava. La mamma gli faceva la respirazione bocca a bocca. A un tratto è morto. Io stavo sdraiata sulle ginocchia della mamma. Anche lei era pallida. Poi è scoppiata la bomba. Era come se mi avessero messo in un sacco nero. La mamma non è più tutta intera. Ho visto un buco con erba e la strada. Ho corso più che potevo. Ogni strada di Beslan piange le sue vittime. Ce n'è una in particolare dove la strage degli angeli ha colpito di più, una strada che in 3 giorni ha perso quasi tutti i suoi bambini. Questa strada ha sofferto più di tutte, era vicino alla scuola. Ogni parte una vittima. Qui stanno facendo un funerale. Lì sarà domani. Io seppellirò mia moglie fra 2 giorni. Sono solo con 4 figli. In quella casa i bambini non li trovano. È una tragedia. Non c'è nessuno di questi 35.000 abitanti che non ha perso qualcuno di molto prezioso, che non ha un dolore terribile in famiglia. Chi ha i figli, chi ha madri, chi ha padri, chi ha amici, non so, non c'è nessuno, io non sono riuscita a incontrare nessuno che non fosse toccato dall'orrore di questa cosa. Io non voglio dimenticare nulla, anche se mi dicono che i ricordi saranno un grande peso. Non voglio dimenticare, perché se lo facessi, io tradirei ogni bambino che è rimasto qui per sempre. Amedeo Ricucci, giornalista ed inviato della RAI in Oriente. Sono passati 10 anni dalla strage di Beslan, sufficienti per capire la dinamica e le responsabilità di quella strage? Beh, non del tutto direi, cioè ancora adesso si continua a scavare, i parenti delle vittime continuano ad avere interrogativi che pongono alle autorità russe. Quella è stata una vicenda che fin dall'inizio è rimasta avvolta nell'ombra, come spesso accade con le vicende che riguardano la Russia. Non si è mai capito chi non si è mai avuta una lista del comando che aveva assaltato, non si sa ancora con precisione quanti fossero, non si sa con precisione quanti siano stati i morti, non si sa ancora bene la dinamica di quello che è successo. E le autorità russe che atteggiamento hanno adesso, dopo 10 anni? Le autorità russe sono come sempre evasive, come capita purtroppo spesso quando sono implicate e sono sotto accusa. Nel caso di Bieslan si è detto e si è scritto che a causare diverse vittime sia stata l'incompetenza dei gruppi che hanno le squadre speciali, il famoso gruppo Alfa che diede l'assalto alla palestra, teatro del sequestro, diciamo, e quindi le autorità ovviamente tendono a coprire queste persone, questi soprattutto i graduati di questo gruppo, quindi è lì l'ostacolo fondamentale. Per quanto riguarda invece i sequestratori, all'inizio le autorità russe avevano puntato tutto sul separatismo ceceno perché si era ancora in piena seconda guerra russo-cecena, si è in realtà scoperto poi, dopo le smentite fatte dai leader ceceni in esilio, che il gruppo era sì guidato da Basayev, che era il leader integralista ceceno, ma era un gruppo internazionale legato al jihad internazionale. Quindi una presenza anche araba? Sì, c'erano, sono stati identificati. Che alcuni bambini, alcuni bambini che hanno testimoniato e che abbiamo ascoltato parlano appunto di arabi, di presenza di musulmani all'interno della scuola, quindi questo è confermato oggi? Questo è confermato, e d'altronde i legami fra i gruppi integralisti ceceni e i paesi del Golfo, i sauditi in particolare, sono rapporti ormai certificati anche da uccisioni di leader ceceni che sono stati uccisi nei territori del Golfo Persico, quindi quel legame è ormai appurato. Si è detto, si è scritto ed è confermato che c'erano anche integralisti che parlavano l'inglese, che avevano passaporti occidentali, quindi era un gruppo molto variegato che non era strettamente legato alla guerriglia cecena, ma era legata all'insurrezione nel Caucaso e quindi al progetto che Basayev aveva di creare un emirato islamico nel Caucaso. Quello che poi sta avvenendo con l'ISIS? Sì, diciamo che l'ISIS ha rimesso in piedi lo stesso sogno, che è un po' un sogno di tutti gli integralisti. L'ISIS è stata più fortunata, mentre invece nel Caucaso la mano forte utilizzata dall'esercito di Putin ha almeno apparentemente messo tutto a tacere. In che cosa è cambiata la Russia di Putin? Ma guarda, io temo che la Russia di Putin non sia mai cambiata da quando Putin è andato al potere. Ricordiamo che Putin ha fatto 2 mandati, poi in maniera estremamente equilibristica ha mandato avanti il suo delfino che era Medvedev, e lui è diventato primo ministro, il tempo di ricandidarsi alla presidenza, e quindi adesso sta facendo il suo terzo mandato, anche se non consecutivo, e probabilmente ne farà un quarto. È un dittatore illuminato, nel senso che ha comunque un consenso popolare fortissimo, perché Putin sta facendo di nuovo sognare i russi e gli fa credere ai russi che è possibile rinverdire i fasti dell'Unione Sovietica. Il suo è un nazionalismo molto aggressivo, che va visto anche storicamente. Storicamente la Russia è passata dalla debolezza di Gorbaciov alla ancor più debole Russia di Yeltsin, è stato Putin a risollevare le sorti del paese sia sul piano economico sia sul piano di potenza in grado di competere con l'Occidente. Ma l'asse strategico della Russia adesso si è spostato ad ovest, verso l'Europa, giusto? Beh, no, direi il contrario, nel senso che adesso è stata costretta a spostarsi verso ovest per diciamo preservare quelle che sono le sue aree di influenza storiche, che se ne dica l'Ucraina, così come la Georgia, paese in cui c'è stata una guerra nel 2008, quindi quella con l'Ucraina è la seconda guerra che i russi fanno in a ovest, in territori che facevano parte dell'ex Unione Sovietica. Diciamo, quelle sono storicamente zone di influenza russe e come tali vengono considerate, e Putin, come qualsiasi altro presidente russo, fa fatica a pensare che l'Occidente abbia il diritto di ingerenza in questi stati. Esiste ancora allora un problema ceceno? Il problema ceceno esiste e non esiste, nel senso che ufficialmente nel 2009 è stata decretata la fine della seconda guerra cecena, che era partita nel 1999, un decennio che ha permesso alle truppe speciali di Putin, all'esercito moscovite russo, di radere al suolo completamente quello stato. Ufficialmente in Cecenia adesso c'è un presidente fantoccio, che è Ramzan Kadyrov, che ovviamente risponde a Mosca di ogni suo gesto e che governa come se fosse un capo mafia con le sue milizie private. La guerriglia è stata messa a tacere, o comunque è stata liquidata in gran parte, una parte è fuggita sulle montagne ed è non è più capace di offendere l'impero russo come negli anni scorsi. Non bisogna però dimenticarsi che la Cecenia è per antonomasia la spina nel fianco dell'impero russo, lo era ai tempi dello zar, lo è stata ai tempi di Stalin e lo è nella nuova Russia post bipolarismo. Quindi tornerà l'irredentismo ceceno, continua a covare sotto le ceneri, non è certo con la forza e con la spada che si può piegare a un popolo di guerrieri e di fieri nazionalisti come i ceceni. Grazie Amedeo per questo approfondimento. Grazie a voi.